Al funerale c'erano tutte le ragazze del collegio e molte compagne dell'università, anche se non la conoscevano, impietosite dall'improvvisa sciagura. Il padre era arrivato il mattino seguente la disgrazia, vestito di scuro. Era giovane. Le ragazze fecero il conto sulle dita, non poteva avere più di 40 anni, ma già i capelli diradavano, ancora biondi, appena più scuri di quelli della figliola. Era rimasto chiuso un'ora nella cappella di Milly, solo con lei. Poi era uscito, più pallido ma sereno, appariva rassegnato, come se la morte di Milly non fosse cosa recente. Neppure si rammaricava di non essersi trovato lì la sera prima, di aver rivisto la figliola quando già pareva una statua di marmo. Imponeva soggezione e si comprendeva che Milly preferisse viverne lontana. Ma era gentile, compitissimo. A tutte le ragazze aveva stretto la mano, dicendo grazie, grazie, come se gli stessero facendo le congratulazioni. All'uscita della chiesa, quando il corteo si sciolse, il padre si volse alle ragazze che volevano seguire il carro fino alla stazione e le congedò con un inchino cortese e freddo. Scalpitavano i cavalli, impazienti. Il ritorno di Milly a Milano affliggeva le ragazze. Emanuela riudì negli orecchi la voce mite dell'amica: «Non voglio tornare, tu devi aiutarmi». E insieme una gran vampa di calore le saliva dalle gambe, su, su, per la vita, alla gola, alla faccia. Lacrime le scendevano sul viso. Tu devi aiutarmi, Emanuela. Che poteva fare ormai? E sentiva nelle mani un sudore freddo come quello che le suscitavano le carezze di Milly sulle dita, un gelo le pareva di avere sulla nuca un pezzo di ghiaccio. Qualcuno la prese per il braccio e la condusse in un bar vicino. Un Fernet, l'uomo disse forte. Era Andrea Lanziani e le chiedeva: «Sta meglio ora? Sta meglio?» Lei rispose, meravigliata: «Sì, ma come ha fatto lei a intuire? Per poco non cadevo quando ho visto Milly andarsene.» «Non ci pensi, non ne parli più. Deve essere stato terribile per voi del Grimaldi e anche noi tutti. Lei la conosceva?» «L'avevo vista una volta con la Costantini.» «Con la Costantini? Oh, mi sembra impossibile, erano così diverse.» Com'era la poverina? Com'era Milly? Ella era rimasta negli occhi di Emanuela con quel viso di cera, negli orecchi con quell'ultima sua voce che chiedeva: «Tu devi aiutarmi, Emanuela.» Era pallida, bionda, aveva una voce mite. E studiava musica? Sì, studiava sempre armonia. Erano usciti dal bar, camminavano vicini, zitti. Andrea la prendeva per il braccio quando dovevano attraversare una strada, la guidava per il gomito, sicuro, la lasciava non appena erano di nuovo sul marciapiedi. La ragazza lo esaminava minutamente, era molto più alto di lei e bruno, aveva occhi neri vicini e il mento forte. Quando furono in Piazza di Spagna, Emanuela s'arrestò, disse: «Aspettiamo ancora, non ho l'animo di rientrare in collegio.» «Non rientri allora. Telefoni e dica che resta a colazione fuori. Farà colazione con me.» «Con lei?» «Sì, senta, andremo in una piccola trattoria che conosco qui vicino. C'è sempre poca gente, vecchi pensionati, impiegati. E presto non ci sarà nessuno ancora.» «A colazione con lei?» «Perché no?» fece Andrea. Accese una sigaretta e poi di nuovo, volgendosi a Emanuela: «Andiamo?» disse. Il ristorante era lì vicino, aveva una grande finestra che dava su di un cortiletto soffocato dai glicini penduli, macchiato qua e là di sole inquieto. Sei, sette tavole, non più, e vuote. Soltanto un grasso uomo mangiava in una tavola d'angolo, ma la faccia non si vedeva, sprofondata nel giornale, e si udiva il rumore delle posate, dei bicchieri, il fruscio della carta. «Ecco, da qui può telefonare», le disse Andrea, accostandosi all'apparecchio. «Mi dica il numero. 66 438. Tenga, è libero.» Emanuela spiegò alla suora che restava a colazione in casa di una parente, una zia. Poi, riappeso il ricevitore, fissò di nuovo il giovane in attesa. «Sediamoci», egli disse, e intanto, mostrandole intorno: «Ho scelto bene», le chiese. Emanuela assentiva, contenta, e guardava in giro, quattro pareti bianche, due boccali di maiolica a fiori su una mensola, ma era veramente piacevole. Anche i tovaglioli, spiegandoli, mandavano un odore grato. Andrea sceglieva sulla lista delle vivande perplesso, giocando con le dita sulla punta del naso. Disinvolto le chiese: Risotto? Risotto. E dopo filetto di tacchino? Benissimo. E il vino bianco fresco. Posata la lista, si volse sorridendo alla ragazza. Lei studia poco, molto poco, è vero? Oh, ma io non studio lettere, studio. Poi anche lei rise e disse: Veramente non studio nulla. Tutto ciò che faccio è andare in qualche galleria con un trattato di storia dell'arte sotto il braccio. Ha visto il Pergamo di Santa Maria in Cosmedin? No. I mosaici di Santa Prassede? Neppure. Tutto da fare allora. Bene, ce la condurrò io. La ragazza non diceva né sì né no. Sorrideva e guardandolo lo ascoltava parlare. Diceva che si sarebbe laureato l'anno prossimo. Aveva perduto un corso per un incidente, una maledettissima caduta di sci. Cosa ne avrebbe fatto poi di una laurea in lettere? Non sapeva bene, ma aveva scelto quella facoltà per le lezioni di Belluzzi e perché non sapeva esattamente se 2 più 2 fa 4 o 5. Anche lei per Belluzzi è una mania. Perché? Anche io vengo in facoltà per sentirlo. Silvia Custo, Sala, Calabrese, da 2 mesi lavora con lui e va in estasi. Ma lei è scrittore, mi hanno detto. Non sono scrittore, veramente. Ma hanno fatto littore 2 anni fa perché gli altri scrivevano peggio di me. Da allora non ho fatto più niente di buono. Però 3 giornali hanno pubblicato la mia fotografia e sono stato richiesto da una casa cinematografica per interpretare un film sportivo. Si serviva il risotto ridendo. Formaggio? E mentre glielo spargeva sul riso, le disse: Sa che l'ho aspettata per 2 ore quella sera al Pincio? 2 ore? 2 ore, sì. Ho imparato a memoria una filastrocca che cantavano alcune bambine vicino a me. Vuole che gliela dica? È quella delle numerose bellissime figlie di Madame Adore. Emanuela rideva, rideva, poi chiese con artificio: E perché ha aspettato tanto? Semplicemente gli rispose: Oh, lei sa bene il perché. Silenzio di Emanuela, intanto un suo intimo compiacimento per quella frase. Rapida pensò: Forse ho il naso lucido all'angolo delle narici. Più tardi, mentre prendevano il caffè, i tovaglioli buttati di qua e di là, la tavola in disordine, egli disegnava dietro la scatola vuota delle sigarette la pianta della sua camera. Qui c'è il letto. Un letto divano, uno di quei congegni scomodi che non sono né l'una né l'altra cosa. Qui c'è il tavolo, ma così ingombro di libri che non posso scrivervi e finisco per andare a lavorare sul tavolo della sala da pranzo. Qui la sedia del gatto. Sì, un gatto vecchissimo, mezzo cieco. Non piacciono a lei gli animali? Era mio amico da quando ero bambino. Come si fa a cacciarlo via? Ecco. E volse il pacchetto. Da quest'altra parte c'è posto perché lei mi disegni la sua di camera. Aveva un modo di parlare insieme armonioso e deciso. Passava da un argomento all'altro volubilmente e obbligava Emanuela a seguirlo, a dirgli ciò che gli voleva. Finirono per parlare delle compagne. Emanuela insisteva: Silvia, le dico che Silvia è un genio. Sarà, ma è brutta, non sembra nemmeno una donna. Oh. Mi dispiace sentir dire così, è la migliore delle compagne. Ah, non ne dubito, ma non è una donna. E la spagnola che tipo è? Deve essere mezzo matta. L'altro giorno a momenti schiaffeggiavo un collega perché le aveva fatto un complimento passando. Lo ha rincorso con l'ombrello. La Ortiz, quella sì è una bella ragazza. Emanuela non rispose. Era ora d'andarsene, il ristorante era tutto vuoto ormai. Alla porta del collegio Andrea la lasciò, accese un'altra sigaretta, si tolse il cappello, domandò: Domani a che ora ci vediamo? Ella ripeté, sorpresa: Domani? Andrea assentì col capo, occupato a riaccendere la sigaretta. Emanuela attacca un poco, pensò: Non ci debbo venire, non sta bene, Stefania. È un ragazzo singolare, peccato. Ma sì, domani lo vedo, domani soltanto e poi basta. E gli rispose piano: Qui alle 5. Nel collegio pesava la morte di Milly, ma Emanuela rientrando non se ne accorse. Lesta salì nella sua camera gioiosamente. Andrea, Andrea, Andrea. La sua contentezza sembrava riflettersi sulle cose che le apparivano migliori, brillanti. La nuda mobilia della stanza di collegio pareva abbellirsi. Tutto era chiaro e accogliente. Toccò il tavolo, pose le palme sullo specchio freddo, poi si guardò, sempre sorridendo, accostò per gioco il viso alla lastra, vicino vicino, aveva le gote accese. Mormorò appannando col fiato lo specchio. Sono proprio bella. E poi di nuovo, aspirando forte, come se non le bastasse l'aria, lo spazio, lasciò lo sguardo scorrere su ogni oggetto, avvivandolo. Un attimo s'arrestò sulla fotografia di Stefania, un attimo soltanto. Immediatamente lo distolse. Basta. Le doleva ricordare che era a Roma per la bambina, in verità, non per studiacchiare la storia dell'arte, non per andare a mangiare con uno studente in una trattoria appartata. Papà ha ragione, bisogna liberarsi. La piccola andrà in un collegio all'estero. Nessuno sa nulla, nessuno deve saper nulla. Così potrò, se voglio, rifarmi una vita. A 24 anni non posso guastarmi l'avvenire per questa faccenda di Stefania. Un amore quel ragazzo, un amore col suo vecchio gatto sulla sedia e la sua presunzione. Un amore. Finché nessuno sapeva nulla c'era rimedio a tutto. Una cosa così lontana, così passata. All'estero, Stefania. Vi sono collegi bellissimi in Svizzera. Era nata in Svizzera la bambina, sarebbe stata benissimo. Quei collegi dove si fa tanto sport, si imparano le lingue, tante cose. Intanto un giorno i figlioli irriconoscenti, egoisti, i figli prendono la loro strada, come ho fatto io in fondo, mai più si ricordano dei sacrifici che hai compiuto per loro. Bussarono alla porta. Ah, Silvia, entra. È chiuso a chiave. Oh, eccomi. Silvia era pronta per andare da Belluzzi, cappello calcato fin sulla fronte. Ha ragione Andrea. Neppure sembra una donna. Silvia, dicevo che sarebbe bene richiedere alle suore di quelle lettere del cieco. Il padre ha lasciato tutta la roba qui, gli si deve spedire. Quale padre? Ma il padre di Milly. Ah, sì, certo. Vuoi che gliele chieda io? Tu sì, io devo uscire adesso. Senti, Silvia, neppure mi hai domandato dove sono stata. Quando? Oggi a colazione. Oh sì, infatti ce lo domandavamo a tavola. Sono stata con l'anziani. Con l'anziani? Sì, senti, ho paura d'essere innamorata. Silvia la guardava meravigliata. Forse era vero, aveva un'aria nuova, più sciolta. Non era mai stata così luminosa. Brava, senza dirci nulla. Te lo dico? Beh, adesso. Ma lo sono da stamattina soltanto. Stamattina c'era stato il funerale di Milly. Le ragazze erano rientrate in casa disfatte, non potevano pensare ad altro. Come Manuela avesse scelto proprio quel giorno per innamorarsi, Silvia non capiva. Loro non potevano uscire dall'incubo di quella tragedia svoltasi lì, tra le loro pareti. Vinca a tavola si chiedeva: "Credete che io l'abbia offesa la sera di Natale, povera Milly? Questo pensiero non mi dà pace." E poi l'avevano intesa in camera sua a recitare il rosario, fitto, fitto, in spagnolo. Negli orecchi di tutte era rimasto quello scalpitare dei cavalli. Di continuo rivedevano gli occhi distanti del padre. Avrebbero voluto sapere cosa c'era tra queste due persone, la figlia e il padre. Mi dirai stasera, adesso è tardi, devo andare. E in fretta la lasciò. Più tardi Emanuela s'avvide che c'era sul cassettone una lettera. Girò e rigirò la busta prima di aprirla. La calligrafia le sembrò nota, veniva da Milano. Quando l'ebbe tagliata, ne cadde un biglietto da 100 e una ricevuta verde. Era di Xenia. Emanuela ebbe un sussulto, come se avesse visto una lettera firmata da Milly. Nessuna di loro aveva saputo più nulla della Costantini. Valentina diceva di averla sognata morta all'inferno che si torceva tra le fiamme e urlando la chiamava. Suor Prudenzina, nominandola, diceva quella disgraziata. Xenia scriveva così: "Cara Emanuela, so che sei abbastanza intelligente per non mostrare questa lettera alle suore e alle compagne. T'ho fatto una porcheria, ma avevo l'acqua alla gola, neppure un attimo ho pensato che tu avresti potuto denunciarmi. Sai bene che non sono una ladra. L'anello è impegnato per 1.000 lire al monte di Via Piè di Marmo, quella strada stretta dove sempre si passava per andare all'università. Sarà increscioso per una ragazza come te andare a ritirarlo, ma credi che io ho patito di più quella mattina andando a portarlo. E non per il fatto che l'anello non mi apparteneva, ma per il modo col quale la mia esistenza incominciava. Ho fatto la fame per 2 mesi, poi ho lavorato da commessa in un negozio di guantaio, bel successo dopo l'università, ma credi che praticamente tutte quelle frottole lì non servono a niente. E adesso sono impiegata in un ufficio di rappresentanza di oli americani per automobili, una delle innumerevoli X&X&X Company. Guadagno abbastanza bene, ma devo vivere. E per questo potrò mandarti solo 100 lire il mese fino a liberarmi di questo debito verso di te che mi ossessiona. Non ti do il mio indirizzo, ormai avremo ben poco da dirci. Forse tu mi giudichi male, ma io seguito a volerti bene, Manuela. Tu sei la sola che mi piacesse veramente laggiù. Mi sono messa in testa di arrivare. Arrivare è un po' vasto, vero? Ma arriverò. Ti abbraccio, Xenia. Sotto aggiungeva. Sor Prudenzina alle 10 spegne sempre la luce? La X&X&X Company era un ufficio piuttosto disordinato. Gente che entrava, gente che usciva sbattendo la porta. Facce trafelate, cappello in testa, una decina di impiegati, tra i quali due donne, Xenia e la segretaria del direttore. Per quello che Xenia aveva da fare, 600 lire al mese erano una fortuna, eppure a sera ella usciva stanca e faticava a riprendere il contatto con la città, impossibilitata di togliersi immediatamente dall'ambiente dell'ufficio come faceva Vandina. Quando questa la veniva a prendere, le diceva: "Che hai con quella faccia?". Poi, a poco anche Xenia si riprendeva. Non era un lavoro intellettuale. Il suo, però ella cercava di fare ogni cosa particolarmente bene per farsi notare. Sedeva alla macchina, un telefono di qua, un telefono di là. Il primo comunicava con l'esterno, il secondo col direttore. Copiava lettere sempre uguali. Risposta alla pregiata vostra. Ma doveva interromperle a ogni momento. Pronto? Sì, la X&X&X Company. Il direttore non c'è, va bene, venga alle 8. Pronto? La X&X&X Company. Chi parla? Vedo subito se il direttore è in ufficio. Mi dispiace, è uscito in questo momento. Pronto? Le passo il direttore. In pochi giorni Xenia aveva capito a chi si doveva dare l'una e a chi l'altra risposta. Generalmente alle voci femminili bisognava rispondere di sì. Tutto sta, diceva Dino, nel comprendere bene l'ingranaggio. Il direttore era un uomo simpatico. Quando Xenia gli portava la corrispondenza da firmare, le chiedeva sempre: "Come va? Come va, signorina Costantini?". Le aveva promesso di aumentarle lo stipendio a luglio, ma luglio era lontano e Xenia voleva per quell'epoca procurarsi un posto migliore. Questo non è arrivare. Spesso vedeva Dino, il quale le aveva fatto ottenere quell'impiego. I primi giorni egli le era sembrato molto compito e invece adesso lo vedeva entrare in ufficio spingendo il battente con la spalla, anche lui col cappello in testa, la giacca sbottonata, senza panciotto, benché si fosse ancora d'aprile. C'è il direttore, Xenia? Se il direttore non c'era, si sedeva vicino alla macchina di Xenia fumando e la ragazza seguitava a scrivere, a rispondere al telefono. Mi ci vorrebbe una segretaria come te, sovente le diceva. Aveva preso a darle del tu ed ella non aveva osato farglielo notare perché gli doveva l'impiego. S'aspettava anzi che cominciasse a farle la corte un giorno o l'altro, invece la trattava come un'amica, come trattava Vandina. Fin da principio Vandina aveva detto a Xenia: "Senti, io capisco bene quello che tu supponi e ti dico subito che per me Dino non è che un amico". "Davvero? Pensavo che fosse lui quello che tu chiamavi il tuo amichetto". "Oh no, lui è molto più povero. Però mica così basso e magro come Dino. Te lo farò conoscere, ma è un orso. È distinto, sai, come te, è studente. Ma ti ripeto, è un orso. Poi è sempre senza soldi, e allora non mi piace portarlo fuori e fargli fare cattiva figura. Te lo presenterò, ma davvero credevi che fosse Dino il mio amichetto?". Dopo queste spiegazioni, più spesso Xenia usciva con Dino dopo l'ufficio. Lui veniva a prenderla con la sua grossa macchina e ciò la lusingava. Era, come gli stesso diceva, una macchina spettacolosa. Con maravigliata invidia, sempre tutti guardavano la macchina e la donna che ne scendeva. Andavano a cena al ristorante e lì qualche volta amici di lui l'attendevano. In principio accadeva che Dino dimenticasse di presentarle e allora Xenia si trovava a disagio. Si diceva: "Tra un minuto mi alzo e me ne vado". E finalmente egli si accorgeva di lei ed esclamava: "Oh, scusa, che stordito, ma hai inteso, si parlava di affari". La presentava, e poi riprendeva a parlare di automobili. Ormai, durante tutta la giornata, ella non sentiva parlare che di macchine. In ufficio, minor consumo per le macchine, maggior rendimento per le macchine. Poi la sera, i discorsi di Dino con gli amici. Hai venduto? Che hai venduto? Hai visto quel nuovo tipo? Qualche volta Dino, con condiscendenza, la metteva al corrente degli affari. Ti spiego il movimento, diceva. È un'azienda in grande, compravendita di automobili, denaro che va, denaro che viene, grosse combinazioni. I privati, capirai, quelli si prendono per il collo. Si compra a 5 e si rivende a 10. Sì, a 10 almeno. In questo momento poi che le macchine non si trovano. Naturalmente bisogna fare in modo che il cliente ti dica sempre grazie, grazie, credendo di aver fatto lui l'affare. Xenia conosceva l'ufficio di lui, tutti i mobili lucidati, poltrone comode. Bisogna lusingare il cliente perché ci creda, e sempre ci crede. Pare impossibile, dopo tante fregature che si piglia, ancora ci crede. Dirgli: ho tenuto da parte questa macchina per lei, soltanto lei può avere una macchina come questa. Si parla, si offrono sigarette americane. L'azienda è vasta e certo alcune volte si rischia, molte volte si rischia. Tra gli amici di Dino, tre erano molto assidui. Tom Barchi, un ragazzo che aveva vissuto 2 anni in America e sempre ne parlava, diceva «Hello, please!». Portava abiti sportivi, cravatte di flanella, gialla, grosse suole di gomma. La sua amica, una bionda slanciata e smilza, che si chiamava Maria e lui chiamava Mary, «è più distinto», diceva, «è come la regina d'Inghilterra». Il terzo personaggio era Raimondo Horsch, un mezzo tedesco, alto, quasi calvo e grigio. Era lui che teneva le redini dell'azienda, benché sembrasse non immischiarsene. Veniva a pranzo o più spesso li raggiungeva in qualche bar dove loro sedevano ore e ore a una tavola davanti a 5 bicchieri e 5 pagliuzze. Mangiava soltanto legumi bolliti, pasteggiava con sugo d'arancia spremuto in un bicchiere con molto zucchero. La sua conversazione era piacevole e intelligente. Xenia, parlando con lui, si riposava delle automobili di Dino, dell'America di Tom Barchi e del telefono della XX&X Company. Mary ascoltava e tossiva. Tutti sapevano che era malata di petto e la vita che faceva non era certo la più adatta per guarire, ma vi era abituata. Se l'avessero rinchiusa in sanatorio, allora si sarebbe accorta di essere veramente malata e si sarebbe disperata. Vorrei curarmi. Ella diceva rattristandosi, riposarmi, ma come posso? Ci si abitua al solito tran tran, non si ha il coraggio di interromperlo. Anche Xenia ormai si era abituata a questo nuovo genere di vita. Aveva lottato in primo tempo. Al mattino, alzandosi, aveva i ginocchi pesanti, le palpebre gonfie. Stasera vado a letto presto, si proponeva. Poi, uscendo dall'ufficio, trovava Dino che l'aspettava, passeggiando su e giù per il marciapiede. Dove si va stasera, piccola? Ah, vado a casa, ho sonno. A casa? Oh, che idee malinconiche! Che vuoi andare a fare a casa, gallinella mia? Ti dico che ho sonno, sono stanca. Va bene, allora, senti, andremo a cena da Icaro, un posticino tranquillo, e poi dopo neppure un piccolo whisky. Subito ti accompagno a casa. Non vorrai farmi cenare solo. Appena ella lo vedeva sul portone, sapeva che non sarebbe andata a casa. Lottava un poco per giustificarsi. Naturalmente rincasava alle 3. Dino le apriva il portone, le ridava la chiave, le diceva soltanto «Buonanotte, piccola!». Da 3 mesi così. Eppure lui la trattava con un'intimità sconcertante, come se fosse stato il suo amante o una sua amica. Ma niente più di questo. Rientrando, Xenia si guardava allo specchio. «Non gli piaccio. Ognuno sa i suoi gusti, forse preferisce le bionde grassocce. Non gli piaccio». E mentre erano insieme lo spiava, quasi a voler sorprendere la cagione dell'indifferenza di lui. Quando in ufficio si sedeva accanto a lei, egli le chiedeva a bassa voce: «Come ti trovi, Xenia? Ti tratta bene il vecchio gufo?» «Benissimo! Ma non puoi rimanerci, ti sfrutta, guadagni una miseria. 600, dicevamo. Sì, ma in fondo non è un lavoro faticoso. Comunque è una miseria, non può andare così. Troveremo di meglio, sai, il momento è brutto. Troppa gente che vuole sistemarsi e i posti mancano, le aziende si restringono. Anche noi, con questa penuria di ferro, tra poco finiremo a vendere automobili di latta per i ragazzini». Quando c'era il direttore, Dino entrava nello studio di lui come un colpo di vento, senza neppure lasciarle il tempo di annunciarlo. Non ho bisogno di lasciar passare io. Tu, ragazza mia, non hai ancora capito chi sia Dino Ricci. Ha più bisogno lui di me che io di lui, se faccio anticamera è soltanto per stare a guardare i tuoi occhi, bella mia. Queste le sole cose gentili che le dicesse. E Xenia se ne indispettiva perché Dino le piaceva e molto. Quando andavano con gli amici a ballare la sera, raramente Dino la invitava. Diceva piuttosto a Tom Barchi: «Perché non fai ballare Xenia?» E stava a guardarla, mentre lei saltellava per la sala appesa al collo del ragazzo che ballava alla maniera americana. Per il suo compleanno Dino le aveva regalato una volpe argentata. Non puoi uscire così senza niente al collo. Le regalò anche una borsa, un vestito. Quando ebbe queste cose, Xenia per la prima volta ripensò al collegio. Quelle laggiù facevano la stessa vita di allora, si lavavano con l'acqua fredda. Le sembrò ridicolo pensare che ella avesse studiato tanto per laurearsi, che fosse stata sul punto di uccidersi dopo l'insuccesso e tutto questo per poter insegnare a declinare rosa rose a un po' di mocciosi in un liceo ginnasio di provincia per poche lire al mese. Aveva mandato il secondo biglietto da 100 a Emanuela, senza lettera stavolta, soltanto un foglietto con la firma, niente affatto curiosa di sapere che cosa facessero quelle sue compagne di tanti anni. Adesso che era sicura di non ritornarci, sovente pensava al paese. Mamma e papà scrivevano che avevano molto da fare per l'orto, la semina, le dicevano che i suoi piopi si erano coperti di foglie nuove. Nasceva in lei il rimpianto per certe giornate di primavera, quando andava per le vie di campagna sola o si recava alla fontana a vedere le donne riempire d'acqua la conca di rame, metterla in capo, parlando tra loro con l'accento aspro del dialetto, o per certi cibi rustici che la mamma usava prepararle quando tornava dal collegio per le vacanze, certi dolci che le piacevano da bambina. Immaginava, certe volte, di tornare al paese con la macchina di Dino, la volpe argentata sulle spalle, far provare alla madre come si stava bene su quei cuscini morbidi della grande automobile, ascoltando la radio mentre si andava per le autostrade. Tornare soltanto per far illividire i visi delle amiche di una volta, mangiare la pizza rustica, vedere i pioppi e ripartire. I genitori si lagnavano soltanto di quella ipoteca sulla vigna e una seria. E una sera Xenia scrisse loro enfaticamente: «Verrà un giorno, miei cari, che anche questo pensiero svanirà. Pregate Dio che mi faccia sempre lavorare». Ed era sincera scrivendo così, sapendo tuttavia che con il lavoro avrebbe potuto fare ben poco cammino, ma provava un intimo desiderio di sacrificio e di bontà. Eppure, se Dino le avesse chiesto di sposarla, gli avrebbe risposto di no. Pensava che invece, ecco, avrebbe sposato volentieri Raimondo Horsch, ma egli aveva già moglie e una figlia, grande, gente che lei non conosceva, ma Xenia pensava così per gioco di pensare. Raimondo Horsch era un personaggio importante. Quando veniva in ufficio il direttore lo riaccompagnava e la sollecitava: «Signorina, la porta!» Ella aveva chiesto a Dino di che cosa si occupasse e lui: «Affari!» aveva risposto e poi aveva parlato d'altro. A maggio Dino le chiese: «Non sei stanca delle 600 lire che ti danno? Ci sarebbe un posto di segretario in un'impresa di cementazioni. Ho parlato col consigliere delegato. Entreresti a 900, manette, senza la tirchieria di quelle ritenute. Io ho detto che parli correntemente il francese, che sai rispondere al telefono in inglese. Oh, dico, però non mi farai fare una brutta figura». «No, Dino, certo no». Era di domenica, domenica mattina, piena di luce, e loro se ne andavano lentamente in automobile lungo il Naviglio. Egli le aveva proposto di andare a colazione fuori, a Pavia. «Non conosci Pavia? Eppure c'è quell'affare là, la Certosa, che è un monumento nazionale. Ti condurrò in un ristorante dove si mangia benissimo». Aprì la radio, ma c'era un'audizione di arpa che lo fece bestemmiare. «Ah, oh, basta!» E tornarono a parlare dell'impiego. «Mi dispiace lasciare il direttore», fece Xenia. «Oh, è uno spilorcio! Ieri gliel'ho detto anche a proposito di un affare. Sai, Xenia, ho fatto un affare buonissimo, una partita di autotreni da mandare in Libia, una grande combinazione. E naturalmente c'è dentro la mano di Horsch, che ha fatto la parte del leone. Ma per me è rimasta una bella fetta». Allora ho pensato che si potrebbe fare un programmino. Tu lasci l'impiego alla fine del mese. Ma sì, 8 giorni di preavviso bastano per quel gufo e ti prendi una settimana di riposo prima di entrare in quell'altro. Io posso partire. Tom si interessa delle mie cose. Non è una cima, Tom, ma per quello che avrà da fare andrà benissimo. E noi due filiamo in Riviera, Sanremo, e magari Nizza o Cannes. Hai il passaporto? No. Oh, è un peccato. E allora Nizza e Cannes saranno per un'altra volta. Sanremo, adesso. È un posto abbastanza allegro. Sarà un bel viaggetto, perché penso che in fondo sarebbe l'ora che io e te s'andasse a letto insieme, no? Xenia non rispose. Avrebbe voluto in quel momento aprire lo sportello e lasciarsi cadere giù dall'auto in corsa, per rialzarsi malconcia, ferita, sì, possibilmente ferita, debolissima per il sangue perduto. Oppure avrebbe voluto che Dino fermasse la macchina e la baciasse, freneticamente la baciasse sulla bocca. Questo aspettava. E perciò gli mise la mano sulla gamba. Tante volte lisciò il tessuto ruvido del vestito. Dino invece aveva aperto la radio e diceva: Oh, finalmente un po' di musica allegra.